apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io ho letto delle cose dove dicevano che eri il nuovo messia, delle cose bellissime, contrastanti, ma si è discusso, sei diventato una... No, tecnicamente penso che sia un pochino cambiata la televisione, da dentro e da fuori, è percepita anche in maniera diversa, costa diversamente fare televisione dopo il Grande Fratello, ecco, qualche cosa è cambiato, no? Cambiare tutto poi per non cambiare niente, perché alla fine è sempre... Beh, però il senso del pudore tu l'hai un po' cambiato, insomma, una volta c'era in televisione... In televisione certe cose non si fanno, ormai in televisione... Ma io ricordo di essere stato uno spudorato, nel senso che il pudore penso sia una cosa un pochino più intima e profonda, tu non infatti... è far vedere un sedere, ma è... In effetti Pietro Taricone aveva perfettamente ragione, maliziosa era la domanda di Luca Barbaresi che invita i suoi ospiti all'intervista nudi dentro la vasca da bagno assieme a lui. Taricone fu un modello di pudore, fu un modello di pudicizia. E Taricone... il vero e profondo eroe militante nelle file dell'eroismo dei nostri tempi, quando possedette Cristina Plevani, la bagnina, vincitrice virtuale della prima edizione del Grande Fratello, consacrò in realtà la sua appartenenza a un rango di eroi non santificati. Infatti non vinse lui ufficialmente, vinse la Plevani, ma lui rimase comunque il personaggio simbolo di quella deriva che 10 anni fa conobbe l'Italia, che era il mondo riflesso del reality show, il luogo della massima rappresentazione del nostro essere persone normali. E lui, grande modello di ipernormalità, rimase ben fisso nella memoria degli italiani, tanto che oggi saranno parecchi a provare tristezza, una profonda, anche se sarà passeggera come tutte le tristezze per le morti dei personaggi dello spettacolo, per la scomparsa di Pietro Taricone. Non avrei cominciato oggi questa puntata in questa maniera. Oggi volevo parlare del senso della militanza, del senso dell'appartenenza, del senso della segnatura a chi apparteniamo noi. Negli anni passati, nei decenni passati, perlomeno negli anni della mia eroica fanciullezza, adolescenza, l'essere segnati, appartenere a qualcuno, si individuava immediatamente dal modo di vestirsi, dal modo di porsi. Beh, Pietro Taricone a modo suo rappresentò la militanza in un esercito di disperati, che ma disperati nemmeno tanto, di ambiziosi di essere qualcosa e qualcuno in un mondo in cui essere qualcosa e qualcuno significa semplicemente essere riverberati, moltiplicati, amplificati dalla televisione. Taricone è morto anche in una maniera molto singolare, si è schiantato con il paracadute. Guardate, una persona che inizia la suo cammino di visibilità e quindi il suo cammino eroico, la sua maniera per essere un eroe, per essere qualcuno che gli altri conoscono, con delle virtù condivise fra tutti ma portate all'eccellenza nella sua persona, cominciò proprio con un atto, con una copula, con una possessione che fece rabbrividire tutti i profondi e paludati osservatori, i grandi semiologi. Mi ricordo che Umberto Eco dedicò vari pensieri a Pietro Taricone, lo chiamava il palestrato allora, perché aveva un fisico addestrato, modellato, nulla di eccessivo, non era un Costantino Vitaliano, non era un Fabrizio Corona, che poi rappresentarono l'apice però di quell'inizio di modello di uomo che cominciava a perfezionare, a movimentare, a dare un senso anche alla sua forma fisica, come fece d'altronde il grande scrittore e poeta Mishima, che a un certo punto della sua vita cominciò a coltivare il proprio fisico, e quindi aveva tutte le caratteristiche comunque di qualcosa che stava cambiando nella percezione generale dell'appartenenza. Quindi una carriera eroica che inizia con un atto d'amore rappresentato pubblicamente, seppur con la pudicizia di un lenzuolo che copriva quell'angolo, quella alcova improvvisata fatta di divanetti dove lui possedette la Plevani, dando gloria a lui ma anche a lei. Lei per questo passerà la storia, una transeunte possibilità di essere eroina. E poi, andando avanti, tentò la strada del cinema, tentò di fare l'attore. Non fu mai credibile in quanto attore, come dice oggi Fabrizio Rondolino nella sua riflessione sulla Stampa. Perché? Perché il personaggio di eroe del reality show, di prototipo di tutti i tentativi di perseguimento di virtù eroica attraverso il reality show, superava e di gran lunga offuscava ogni altra sua possibilità. È morto come in una certa generazione, in certe epoche, tutti avrebbero sognato, desiderato o perlomeno proclamato di voler morire, cadendo dal cielo con un paracadute in un atto che è sì un'attività sportiva, ma in tutti gli anni 60, 70 fino agli anni 80 il paracadutismo viene considerato una delle attività eroiche di chi si volesse distinguere comunque da un certo pensiero corrente, non volesse appartenere al pensiero di sinistra, faceva il paracadutista. Ho fatto anche io il paracadutista perché allora mi sentivo di fare quello. Era una sorta di iniziazione a un mondo di eroismo che non era più percepibile, non era più riscontrabile in certi modi d'essere, modi di pensare che si vedevano appunto nei compagni di scuola, nella società che c'era intorno. Allora in quegli anni era molto netta la differenza, era molto netta la possibilità di essere dall'una o dall'altra parte. Oggi è un po' più difficile capire questa differenza. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le briglie del paese. E Dio briglie, perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta! Ordine, obbedienza, disciplina! Basta o l'antistorica uguaglianza! Ma che vuol dire? Ma perché un ingegnere deve essere uguale a un muratore? Madonna d'un Dio! Soltanto i coglioni sono uguali l'uno all'altro! Bravo! Perché se questa è la democrazia, sapete che vi dico? Moschettieri, imbracciate il fucile! Artiglieri, innescate la miccia! Genieri, fuori i ramponi e sabotate le linee! Caimani, pugnale fra i denti e distruggiamola questa democrazia! Visto questa mattina il tema è la militanza, quale oggi sia il senso della militanza? Esiste ancora la possibilità di dichiararsi militanti? Esiste ancora una differenza di punti di vista, di Weltanschauung, come si diceva, visto da destra, di visione dell'esistenza, di coscienza sociale, come si diceva, visto da sinistra? Questo è uno dei film che più fece male alla militanza di destra degli anni 70. E vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli, quello che parla ai Tognazzi, che un po' fanno la rilettura satirica di quello che fu l'ambiente, l'humus attorno al golpe borghese, è qualcosa fatto di vecchi nostalgici, di militari che non si rassegnavano, di eroismi e di strascichi lunghi di una visione della vita che lentamente veniva assorbita, veniva diluita da quello che erano gli anni prima del boom economico e poi gli anni cosiddetti di piombo, gli anni in cui poi il confronto politico, l'ideologia portata sulle piazze in maniera indiscriminata, in maniera folle, in maniera che oggi giudicheremo irrazionale, portava ragazzi di ottima famiglia, di stimata estrazione sociale, assieme a ragazzi di rango ben diverso, a spararsi addosso ed ammazzarsi. Ciao Michele, sono Simone, sono cattolico. Siamo tutti cattolici e ti vogliamo conoscere tutti. Tu la pensi come noi? Siamo molto simili. Tu come ti definiresti? Mi ricordo ateo e materialista. Me l'aspettavo, ma c'è il tuo lavoro. Tu lo fai bene, con interesse, con passione, con molta professionalità. Tu credi nel tuo lavoro, tu sei credente. Noi abbiamo capito molte cose di te. Tu ci hai molto insegnato. C'è qualcosa in me, dentro di te, che mi commuove. Siamo uguali. Io sono comunista. Michele, io sono contento che tu esisti. Tu sei contento che io esista? No! No! Dovrei cambiare l'oggetto. Qui invece siamo a un altro punto di vista, leggermente più avanti nel tempo, perché Palombella Rossa è un film già avanzato di Nanni Moretti nell'Osservazione dell'humus in cui lui cresceva, da cui si alimentava, di cui faceva parte, non rinnegava, ma manteneva un occhio attento, lo descriveva come se fosse un entomologo. Qui era il giovane di sinistra, già cominciato a entrare in crisi e corroso alle basi dal giovane Cellino che comincia a fargli capire che il mondo è diverso, qualcosa sta cambiando e qualcosa è radicalmente, profondamente cambiato. Oggi vi ritenete militanti in qualche area politica, in qualche maniera di essere? Ritenete che il concetto militanza sia un concetto superato o ritenete che sia ancora possibile considerare di avere un mondo di valori, di appartenenza del quale si faccia parte? In realtà è nato proprio in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, ne leggo l'eco su giornali, ad esempio oggi sul Giornale c'è un articolo che dice la festa rossa dei finiani con Lerner, Vauro e Luxure. Parla di un movimento che si chiama Caffeina, movimento divertente, io sono stato ai loro convegni negli anni passati, che nulla a che fare con la politica secondo me, però è promosso e immaginato e portato avanti da una persona che comunque è contaminato dalla politica. Filippo Rossi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco Filippo, questa mattina ti do un'occasione, non ho presenti controparti, però mi dà mi mette curiosità cercare di capire quello che stai facendo, quello che stai combinando. Te indubbiamente sei una persona collocata politicamente, inutile fare il punto più alto, la tua espressione letteraria è stata Fascisti immaginari, un libro meraviglioso che hai scritto nel 2003 sì. Insieme a Luciano Lanna, in cui cominciavi a sgretolare il mito indefesso, immarcescibile e tetragono dell'appartenenza al mondo della destra. Fascisti immaginari rivelava che i giovani che erano ideologicamente collocati a una militanza di destra, però leggevano i fumetti di Diabolik, andavano a vedere certi film, ascoltavano certa musica, insomma erano contaminati, anche piacevolmente contaminati, da mondi e valori e appartenenze che in realtà, secondo una visione manichea della vita, non appartenevano a loro. Ecco, che passi avanti hai fatto? Ma il passo avanti è quello che ha fatto tutta la società e anche la cultura occidentale. Il passo avanti, in realtà, sono convinto, dal 2003 a oggi è stato soprattutto internet. Internet è quel che significa culturalmente, quindi osmosi, condivisione, riconoscenza dell'altro, sapienza anche, cioè immergersi nella rete e incontrarsi con altri che prima non avresti mai incontrato. E quindi la disgregazione graduale di un concetto di militanza che in realtà è sinonimo di divisa, di appunto di milizia e quindi anche di uguaglianza, cioè in realtà io sono convinto, al di là che poi alla fine per me sono solo etichette e scatole vuote, che poi c'è una, diciamo così, prosecuzione ideale tra quell'ideale di destra e il fatto di rifiutare ogni militanza, perché i militanti sono tutti uguali, i militanti hanno la divisa, i militanti obbediscono a degli ordini, che era però l'orgoglio di chi negli anni 70-80 indossava una divisa proprio per segnare la sua appartenenza. Sì, ma era anche la contraddizione. Abbiamo sentito prima il grandissimo Tognazzi che si scagliava contro l'uguaglianza. Allora, in realtà, scagliarsi contro l'uguaglianza, incominciamo a scagliarsi contro la nostra uguaglianza interiore. Cioè, io se mi metto una divisa voglio essere uguale a qualcun altro, mentre se io voglio essere differente devo garantire le differenze di tutti. Sentiamo un attimo Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buona giornata. Niente, io sono un ultra cinquantenne, 53 per la verità, e sono stato un militante di sinistra. Sono stato un militante di sinistra che ha fatto il militare nella Folgore paracadutisti. Ed è una specie di mito che siano tutti di destra quelli che militavano nella Folgore. Quando ho fatto il militare io, l'ho fatto a Siena, e più o meno funzionava così nel mio battaglione. C'era un buon 50% di gente apolitica, un 30% che si richiamava a valori di destra e un 10-15% che praticamente si richiamava a valori di sinistra, con una piccola differenza. Quelli che entravano da destra in quel reparto c'entravano come individui, cioè individui che per la propria idea si identificavano con il Nembo, la Folgore. Chi ci andava di sinistra ci andava organizzato, ovvero la decisione di andare nei paracadutisti veniva presa prima, veniva presa nelle sezioni, proprio per non dare, diciamo, agli avversari la possibilità di avere l'esclusiva. Quindi, diciamo, era un'azione strategica di occupare strategicamente, sì, alcuni, cioè, posti io infatti per osservare il nemico, ecco, facciamo così, diciamola così. Sì, oggi c'è la militanza. Quindi lei è una specie di agente segreto infiltrato nella Folgore per osservare il nemico. Ma io ero nel battaglione che stava a Siena, che allora e che ancora oggi. In che anno l'ha fatto lei il militare? Io l'ho fatto nel periodo 79-80 e funzionava così. Io ci sono arrivato un pochino più tardi degli altri perché avevo fatto l'università, ma la scelta di andarci venne durante una riunione di sezione dove si diceva: allora chi deve fare il militare? Alzi la mano, allora tu, ve la sentite di... E si faceva così. Però guardi, quello che sta dicendo lei conferma esattamente la mia lettura. lei era mandato con un preciso incarico dal capo della sua sezione a svolgere un'operazione di intelligence in quello che era il territorio del nemico. Lei si ricorda quando ci fu il famoso incidente della Meloria, penso una decina d'anni prima, cadde un C-119 con parachutisti italiani al largo della Meloria e morirono tutti. L'Italia fu piena di scritte, 10, 100, non mi ricordo quanto erano, 40, 20 fascisti in meno. E lì le piazze si... Ci fu una cosa veramente terrificante di quello che nacque all'indomani di questo tragico incidente. Lei comunque mi dimostra che erano anni in cui l'appartenenza era importante e soprattutto la propria vita era molto condizionata dalla scelta che si faceva. Lei pensa che ha fatto una scelta in realtà difficoltosissima, perché fare il militare nei Parà significa passare un anno d'inferno rispetto alla possibilità di imbucarsi in una fureria o fare semplicemente il militare, che è un servizio militare molto duro, molto molto molto duro. Lei l'ha fatto perché gli è stato chiesto e imposto dal capo della sua sezione di andare lì e fare il suo rapporto, penso settimanale, su quello che succedeva. Diciamo che quando io andavo in libera uscita mi potevo vedere con gli altri e si faceva una specie di, come dire, di situazione, perché era il tempo degli esercizi, era... E poi, attenzione, la sinistra non è tutto uguale. Ma assolutamente. Ad esempio, io sono una persona pacifica, ma non sono affatto un pacifista. Sì, comunque mi interessava la prima parte del suo intervento, mi interessava avere questa sorta di brandello di questo trancio di vita, di quello che era il significato della militanza negli anni passati. Il significato si è un po' perduto. 800240024. L'incipit mi sembra molto chiaro. Marco. Sì, buongiorno, sono Marco da Ferrara. Volevo fare un'osservazione anche un po' filosofica. Ecco, per il mio, destra e sinistra sono categorie vecchie ormai di 200 anni. Entrambe sono categorie positiviste nel mito del lavoro, industrialiste. Ecco, l'attualità le vedo sorpassate dalla realtà. Sono proprio vecchie, sono passatiste, bisognerebbe cancellarle perché dividono ed imperano. Lei ha usato il termine passatista, che già la colloca comunque in una visione della vita particolare. Una persona di sinistra non direbbe mai passatista. Non so cosa direbbe una persona di sinistra, perché non mi ritengo né di destra né di sinistra. Sono una persona libera con una mia visione libertaria del mondo. No, dire passatista da una visione eroico avanguardista è divertente, mi piace il termine, sì, passatista. È un po' marinettiana come definizione. Sì, però si rende conto che questa antica e centenaria definizione tra destra e sinistra ha causato in alcuni anni, fino a non moltissimo tempo fa, lutti, sangue, uccisioni, guerre fratricide interne che oggi difficilmente spiegheremo alla luce di quello che accade. Filippo Rossi, riprendiamo il punto, perché vorrei capire cosa stai facendo combinando te. Cos'è Caffeina e come si distingue Caffeina da quello che è poi il tuo ruolo? Obiettivamente tu sei direttore di Fare Futuro, che è un'organizzazione che ha una sua funzione politica, che fa parte comunque di un punto di vista certificabile e percepibile. Caffeina è un'altra cosa rispetto a Fare Futuro? Caffeina è tutta un'altra cosa, in realtà è un hobby alla fine, in fin dei conti. È un festival che si tiene a Viterbo ogni anno le prime tre settimane di luglio, e da adesso praticamente è anche un mensile di abbonamento, Caffeina Magazine, che appunto vuole portare all'estremo l'idea dell'osmosi culturale. Tu l'hai ridotto in uno slogan che fa molto arrabbiare oggi le persone: meglio la misticanza che la militanza. Meglio la misticanza della militanza, perché è meglio il confronto, la non etichettatura. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore. Cioè il problema oggi soprattutto, e oggi in certo tipo di stampa, tu prima hai letto l'articolo del giornale, è l'etichettatura a prescindere, perché è vero che negli anni 70, tu ne parli molto giustamente, c'era questo scontro ideologico, però era basato alla fine su cose vere, le ideologie erano ancora vive. Oggi le ideologie sono cose morte, e quindi il confronto deve prendere il sopravvento sull'etichetta, perché l'etichetta, se è vuota, è solo merce. Allora andiamo a parlare dei contenuti, non perché siamo tutti uguali, ma per capire le nuove differenze. Ma come hai fatto a convincere, ecco, persone appunto come Lerner, come Varo, come Luxuria, a venire a un festival letterario organizzato da te, che comunque sia ad onta o a verità sei considerato una persona di destra? Indubbiamente il tuo DNA è profondamente di destra. Sì, questo dovrebbe essere un'altra discussione, però diciamo che è profondamente marinettiano, per riprendere le terminologie di prima. No, ci si fa quando si parla di contenuti, quando non ci si approccia con la divisa, appunto, la militanza, per cui io ho una divisa nera, un altro ha la divisa rossa, e quindi ci troviamo in campi avversi, in eserciti avversi, ma in realtà si fa quello che fa la gente normale, si discute in salotto e ci sta il cugino di destra, il cugino di sinistra, il cugino che non è niente, appunto quel 50% di paragotisti che non erano politicizzati, che poi alla fine erano la maggioranza, erano persone normali che discutono e che si dividono di volta in volta sui temi, sui contenuti e non sulle etichette. Melog 2.0. Oh, è vero che sei comunista? Che ne crediamo della galera, camicia nera, trionferà. Sono una compagna di sezione di Manrico, devo prendere dei volantini. Che mio fratello quello l'avrà detto come una scusa, poi abboccato. Si vede che mi piace abboccare. La prima regola è l'onore, vuol dire non tradire l'amico, non tradire la patria, non tradire l'idea. Perché non ti cominci un attimo pure a guardare un po' intorno, magari ti accorgi che esiste pure qualcun altro. Ma perché io non ti piaccio? Perché sono fascista. Vieni qua! Sì. 800 24 00 24. Questa mattina ci stiamo interrogando su quanto ancora oggi abbia senso la militanza, se è più giusto, come dice Filippo Rossi, fondatore di Caffeina, movimento culturale, festival, adesso anche rivista cartacea, sta facendo arrabbiare un po' tutti, sia a destra che a sinistra, perché permette una zona intermedia di confronto su temi culturali, su temi di ragionamento, su analisi del mondo, senza necessariamente indossare delle casacche. Quindi per Filippo Rossi la misticanza, con ottima insalatina, va molto poco di moda, perché per fare la vera misticanza bisogna andare per campi e per boschi e trovare la borragine, trovare quelle erbette che oggi nessuno più sa che nemmeno esistano, che una volta era l'alimento dei poveri. Quindi la misticanza, l'insalata fatta con un po' di tutto, ma soprattutto con erbe rare, con erbe povere, è per Filippo Rossi il massimo valore. Quello che abbiamo sentito è Mio fratello è figlio unico, è il film di Daniele Lucchetti, che è stato ispirato, anche se poi in parte rinnegato nella rilettura che ne ha fatto il regista, dal romanzo di Antonio Pennacchi, Il fascio comunista. È la storia di due fratelli, avete ricordato, i fratelli Benassi, che uno è Leo Germano e l'altro Riccardo Scamarcio, uno di destra e uno di sinistra. E avere questa sorta di appartenenza fratricida in famiglia negli anni 60-70, diciamo che era un luogo comune in tante province italiane. Io ricordo dei fratelli, non dico il cognome perché probabilmente sono vivi e rispettabili professionisti, nella mia città di Perugia uno era fascista, l'altro era comunista. Quando si incontravano per Corso Vannucci, uno aveva l'eschimo, l'altro aveva il giaccone verde. Iniziavano a darsi colpi, calci, botte di karate per dimostrare a entrambi gli schieramenti che la loro appartenenza era forte. Poi la sera andavano a prendere l'autobus, prendevano il 60 barrato, se ne tornavano nel quartiere di periferia di Perugia dove abitavano. E la mamma li sgridava. Sì, perché? Perché avevano sporcato i vestiti, perché si erano ammaccati, perché si erano fatti male, e si mettevano lì a tavola a testa bassa insieme. Però il giorno dopo ognuno con il bastone in mano nello schieramento opposto. Erano anni in cui rischiavano veramente trovarsi l'uno e l'altro con una pistola in mano. Era un attimo. Non dimentichiamolo, Filippo, che oggi tutti quelli che parlano di militanza, parlano di purezza di valore, tutta gente che in quegli anni ancora prendeva il ciuccio, forse nemmeno era nata, non sa cosa significhi veramente. O faceva altro. O faceva altro, naturalmente, erano i bravi ragazzi che studiavano. La militanza fu qualcosa di sporco, di coatto, una volta che eri dentro non ne uscivi più, era molto difficile uscirne. E i rischi, l'escalation, era veramente forte. Capitava che il compagno di banco del liceo da un giorno all'altro lo trovavi in galera perché aveva fatto una rapina. E non ti spiegavi perché quel bravo ragazzo che era come te, vestito come te, andavate agli stessi concerti, leggevate gli stessi libri, frequentavate le stesse ragazze. Da un giorno all'altro l'hanno trovato una mitraglietta in mano a fare una rapina, insieme a dei coatti, insieme a dei camorristi. Non capivi mai, si perdeva il senso. Alba, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo parlare, intanto iniziare... scusi, però ho un ritorno fastidioso, non riesco a parlare bene. Ecco, lei sta sentendo al telefono, adesso abbiamo abbassato il ritorno, sì. Molte grazie, adesso va bene. È un ritorno di fiamma, d'altronde è dato l'argomento, è logico. Ah, beh, certo. Allora... continuo ad averlo, spero di concentrarmi e di riuscire. Si concentri, guardi, cerchi di parlare con ritorno, faccia finta che è una pratica zen. Perfetto. Allora, premesso che con riguardo al discorso militanza e misticanza, c'è un qualche autore latino di cui non ricordo il nome che diceva est vita militia. Quindi la militanza è comunque uno stile di vita in qualunque ambito ci si trovi ad esercitarla. Io da donna ho fatto una militanza molto estetica, vale a dire negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, ci si riconosceva in una certa parte abbigliandosi in una certa maniera, con dei segni di riconoscimento, come poteva essere la gonna di quel determinato negozio, i camperos che all'epoca erano il segno distintivo. Dunque lei sta parlando diciamo della metà degli anni 70, fine anni 70. Sì, dunque, io parlo fine anni 70, perché io iniziai le superiori nel 77-78. Dunque camperos, stivali importati da Valverde del Camino, mi sembra, dalla Spagna. Pochi esatto. Fortunati li avevano a Perugia, perché andavano dei ragazzetti a Roma a comprarli dall'importatore, li portavano vendendoli al doppio ai ragazzi perugini. Bisognava esatto. Scalcagnarli, quindi ungerli con del grasso, portarli esatto. Strascicati, soprattutto l'estate. Il camperos era innegabile, i piedi dentro si infradiciavano, naturalmente ne entravano due pezzi di gorgonzola andati a male, ma senza camperos non si poteva appartenere a nulla. Esattamente, per acquistare questi camperos facevamo le code davanti al negozio dell'importatore dalle 5 di mattina, perché ne arrivavano in un numero limitato e quindi dovevamo necessariamente accaparrarceli. Filippo Rossi, così... su camperos, un attimo. No, è un ricordo personale, io in realtà ho sempre usato le Clark, ma solo da perché... compagno. Da compagno, ma in realtà è solo perché sono alto 1,95, i camperos avevano i tacchi ed era per me un incubo, cioè non potevo avere i camperos perché se ero arrivato a 2 metri, un 14enne, quindicenne di 2 metri, già non rimorchiava, figuriamoci se si alzava ancora di più. Cioè, il problema era anche quello. Abbiamo al telefono Paola Concia. Paola Concia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ti abbiamo trascinato in un alto dibattito, come vedi, infarcito di profondi e importanti carino, riflessioni. No, no, no. Sì, però dai, ci domandiamo. Io devo dire una cosa, però fatemela dire da militante. Tu sei militante ancora? No, ma oggi sono molto militante, perché no, a parte gli scherzi. Io sono in sciopero della fame per i lavoratori dell'Eutelia. Da quanto tempo? Da stamattina. Vabbè, adesso ancora non è che ne sei provata fisicamente. No, stiamo facendo questo sciopero a staffetta, però oggi ci va a collo, perché questa... Quindi stai dando prova di militanza, tu ancora fai sciopero della fame. Ma questa è una militanza buona e giusta. Ecco, grazie. Diciamolo. Grazie. Paola Concia, ricordo, deputata italiana al Partito Democratico, eletta alla Camera nel 2008, vuoi che dica che sei l'unica parlamentare che ha fatto coming out, perché fa parte della... No, non sei stufata di questa sì, ulteriore etichetta? Sono eterosessuale, coming out. Pensa che addirittura ho letto ultimamente su un giornale qualcuno che ti criticava perché metti il rossetto rosso con i capelli grigi. Dovrebbe metterlo color perlato, hanno detto. Non so perché. Sì, ma che gli importa? Comunque, a parte questo, sulla militanza, io sono proprio, diciamo, la mia adolescenza è infarcita dalla militanza, perché io sono l'ultima figlia di 4 figli che hanno fatto battaglie di anni 70, quindi ero la più piccola. No, come militavi te? Come... Ma io venivo trascinata nelle manifestazioni dai miei fratelli, ovviamente. Però e dove accadeva questo? A Roma o L'Aquila? No, accadeva ad Avezzano. In Avezzano, sì. Però io mi ricordo anche un clima pesantissimo. Cioè, a me quel clima non mi piace, io non voglio tornare agli anni 70... E un conto alla militanza, cioè ci sono diciamo vari livelli di militanza e un conto è quella roba lì, cioè io mi ricordo con angoscia mia sorella che veniva a Roma all'università, oppure piuttosto quando arrestarono alcuni brigadisti ad Avezzano e noi, mia sorella che li conosceva era terrorizzata che succedesse anche a lei, perché questo succedeva agli anni 70. Sì, c'era sempre questa paura di essere coinvolto in qualcosa che non si sapeva. C'hai sempre paura che l'amico con cui era andato al cinema il giorno dopo ti avrebbe tirato dentro in chissà quale guazzabuglio, ma erano cose importanti, serie, gente sfatta carcere speciale per anni. Io me lo ricordo. E quindi a me quella militanza, io non ho nessuna nostalgia di nessun genere, ecco questo, ecco, sicuramente. La formula di Filippo Rossi oggi è che la misticanza sia meglio della militanza, cioè l'insalatina ricca e fantasiosa in cui può convivere appunto la borragine con il radicchio, il cetriolo con la carota e via dicendo, possa avere un senso più legato ai nostri tempi. Guarda, io adoro la misticanza, proprio la amo da morire. Penso che Penso che la militanza, quando è appunto ottusità, estremismo, incapacità di dialogare con l'altro per paura di mescolarsi, io penso che sia una cosa negativa. Io, come in questi giorni, io sono stata al Gay Pride di Napoli, sono stata attaccata ferocemente da un gruppo di un centro sociale e che mi ha per mezz'ora insultato dicendomi fascista. E è stata una bruttissima esperienza. E perché? Cosa avevi fatto di fascista? Perché semplicemente ero andata 8 mesi fa una volta a Casa Pound, Filippo lo sa, Casa Pound, a spiegare a questi di Casa Pound che la violenza contro gli omosessuali è una cosa terribile, a spiegargli i diritti degli omosessuali. Per questa ragione sono quasi arrivati alla violenza fisica, ecco. Insomma, io l'ho vissuta 2 giorni fa sulla mia pelle, quella militanza. Io credo che quella cosa non faccia bene a nessuno, come non fa bene a nessuno la militanza di Casa Pound quando sono violenti, e quella contrapposizione selvaggia. Io credo che questo paese sia la cosa che la sta uccidendo, colpa dei politici anche. Filippo Rossi, quello che... No, sono d'accordo con la Concia, ma soprattutto... molte persone che criticano questa critica alla militanza considerano la militanza come sinonimo di impegno politico, di passione, di spendersi per l'altro. Ma quella non è militanza, cioè diamo il nome. Io ho fatto cosa. Una missione sull'altruismo, dimostrando che l'altruismo in realtà è inesistente se non una ottima occasione di gratificarsi o di avere un plateale e corale riconoscimento del proprio occuparsi degli altri. Gli altri, quando li riconosciamo, non se ne accorge nessuno, nemmeno noi stessi. Appunto. Quindi l'impegno è una cosa, la militanza è un'altra. La militanza è appunto è il mettersi una divisa. Il mettersi una divisa è essere pronti a prendere degli ordini. Prende degli ordini a prescindere da quello che poi uno ha dentro, a quel che si pensa. Allora chiudo qua perché devo dare la linea alle informazioni del trascio. Ma sentirsi pronti a prendere degli ordini, tu lo vedi come un'accezione negativa, una violenza a te stesso, ma tu pensa che la maggior parte degli esseri umani che ci circondano, prendere degli ordini è una necessità. Se qualcuno non ti dà ordini, ti trovi sperduto, come un naufrago in un mare procelloso, e quindi molti cercano chi loro dia ordini. Melog 2.0. Forse le idee un po' confuse. Ce l'hai parecchio confuse, eh? Sì, ma imperialismo, sociale imperialismo, i suoi lacchè. Non scambiare la contraddizione secondaria con quella principale. Sì, ma i miei problemi è chiaro che si risolvono soltanto con la creazione del partito rivoluzionario. Sì, ma noi è la lotta fra le due linee. Lo vedremo mai comunismo? Cultura borghese o cultura proletaria? Almeno un pezzetto della fase di transizione. Per stabilire un legame con le masse dobbiamo agire in conformità con i loro bisogni e i loro desideri. Sì, certo, i desideri delle masse. Ma perché facciamo politica? Per le masse? Come perché? Perché è giusto. Sì, sì. Ma siamo seri. Ma che ci frega a noi dei desideri delle masse? Questa è la prima, secondo me, fatale, importante e discriminante lettura di Nanni Moretti. Non sono un autarchico, in fondo ci sono sempre questi amici, questi compagni che leggono tanti libri, che parlano sempre all'assemblea, ma nessuno era convinto veramente di quello che loro dicessero. E d'altra parte c'erano altre persone che invece contemporaneamente, e il fatto che siano contemporanei questi due filoni forse nessuno ci riflette abbastanza, erano fortemente legati a quest'altro tipo di immaginario. Mi chiamo Primo Arcovazzi, sono nato a Cremona nel mese di luglio, il mese in cui è nato Mussolini. Io invece non ho avuto questo onore, sono nato in maggio. Ah, il mese degli asini. Senta, Arcovazzi, si fermi. Buca con fango. Parliamo un po', e non da nemici. Silenzio, io non parlo con i prigionieri di guerra. Ascolti, ragioniamo. Rapidi ed invisibili, partono i sommergibili, cuori e motori, tassalitori contro l'immensità. Filippo Rossi, inventore di caffeina, inventore lo slogan "la misticanza è meglio la militanza". Forse vale la pena però ricordare oggi a chi richiede gli steccati precisi, le aree ben definite, gli orgogli ideologici, che questo era la militanza. E tutto ciò che è venuto dalla fine anni 60 fino all'ambire dei primi anni 90 è su questi due esagerati filoni. Da una parte la nostalgia indefessa per un passato, per l'eroismo, per il restauro dell'onore, della gloria e dell'ordine dell'ordine, della famiglia, dei grandi valori, e d'altra parte l'incomprensibile misticanza di parole che non portava a nulla, basata su una profonda insincerità, che poi andò a sfociare in quello che è rimasto oggi l'ultima reliquia terrazziera dell'ideologia, che sono i signori che si guardano, che si scambiano pensieri visti dall'alto, che ancora vivono nella nostalgia di quei tempi passati, in cui in realtà l'ideologia, quel tipo di ideologia, aveva in mano tutte le leve del potere, della politica, della cultura e via dicendo. Invece cos'è Caffeina? Caffeina è un tentativo umilissimo di fare un passo avanti rispetto alla nostalgia per la guerra civile eterna italiana, guerra civile che ormai non è più guerreggiata ovviamente, ma è psicologica, è appunto la nostalgia per i buoni e i cattivi, per noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, noi siamo quelli che vogliono il bene dell'Italia, gli altri sono i comunisti. Io credo che appunto a te ti danno del comunista adesso. A me mi danno di tutto, non è un problema, io ripudio le etichette e continuo a darmi etichette, ma non è figuriamoci, è il tentativo di parlare, semplicemente di parlare. Io credo che poi sia un atteggiamento molto patriottico. Domani avrai Saviano. Domani avrò Saviano, che abbiamo avuto, c'è anche una grossa intervista. Cioè in Piazza Viterbo Saviano. Piazza Viterbo Saviano, Roberto Saviano. In Piazza Saviano del anche si sono abbastanza, leggevo articoli mesi fa, non abbandoniamo Saviano alla sinistra, Saviano è dei nostri. Di chi è Saviano? Ma, ecco, appunto, Saviano è, di là che è un amico, ma è la cartina torna solo di ciò che non funziona in Italia. Saviano è un grande scrittore, è una persona che ci ha messo la faccia, ci ha messo la penna contro nella lotta alle mafie italiane del sud, ma detto questo Saviano non è di nessuno, Saviano è di se stesso. Diciamo, mi ha fatto una grande impressione vedere Saviano nei vicoli di Capri un anno fa, un ragazzino pallido perché sta sempre all'ombra, circondato da 10 carabinieri che gli girano intorno e non si può muovere, anche va a dormire con loro accanto. Qualcosa fa riflettere sulla sua diversità. Poi uno può dire quello che vuole, sì. Grande scrittore, pessimo scrittore, grande paraculo, quello che uno vuole, però in effetti la realtà è questa. Realtà io e te stiamo tranquilli, d'inferno. Usciamo da questa porta e nessuno ci spara addosso. Saviano forse qualcuno potrebbe aver voglia di farlo. In realtà Saviano fa una vita d'inferno, ma oltretutto, e lui nell'intervista che ci ha dato per Caffeina Magazine, per il primo numero, dice non mi sopportano perché non sono un militante. Infatti lui prende gli attacchi sia da destra che da sinistra. Saviano è una persona che ha detto, per esempio, che il ministro Maroni ha fatto buone cose, senza problemi. Perché io credo che tutti noi dovremmo rimetterci in campo per quel che pensiamo, non perché pensiamo sicuramente il giusto. Sai cosa sto riflettendo quello che dice? In effetti il militante era uno schiavo. Certo. La realtà che nessuno pensa, che il militante era uno schiavo, tu hai detto una cosa che su cui nessuno aveva riflettuto. Dire qualcosa che è controcorrente rispetto, che ne so, al Fabio Fazio che ti ha chiamato, ti sei messo steso per terra perché è il privilegio di essere l'unico che ti può avere in televisione, questa è una frase che suonerà come una bastonata sulle palle. Nessuno perdonerà a Saviano di aver fatto un'ammissione filogovernativa che magari lo pensava veramente in quel momento. No, ma lui quando è andato per esempio in televisione su Rai 3 ha fatto uno dei più bei discorsi anticomunisti della cultura italiana, parlando di ciò che sono stati i gulag in Russia, però in realtà non serve a niente perché nessuno ti ascolta veramente, tutti ti guardano per l'etichetta che ti danno, per la cornice che hai. Claudio, buongiorno. Buongiorno, io sono uno che ha militato negli anni 70, fine degli anni 70 nel MIS, e ho avuto fortuna di essere anche amico di dei cervelli che all'epoca erano nell'area raufiana, perché penso che Filippo lo sa, era diviso in due, l'ala mirantiana e l'ala raufiana. L'ala raufiana, nonostante fosse considerata la più violenta, era quella che pensava di più dell'assurdo. Mm-hmm. E c'era questo desiderio da parte nostri di parlare con la sinistra, cioè sembrava assurdo, la sinistra non ne fregava nulla perché giustamente avevano un dominio culturale e una maggioranza schiacciante anche a livello culturale. Noi avevamo questa esigenza quasi fisica di dover dimostrare di essere meglio di quello che ci fingevano, cioè non si era così merda, scusa l'espressione in radio, ma non si era così schifosi come ci dipingevano gli altri. Allora questa voglia di mostrare, diciamo che questa è un po' la tendenza della destra extraparlamentare, così veniva chiamata, quella che poi ebbe gli anche parlamentare, perché all'interno i rautiani erano all'interno del partito, erano una minoranza, però cercava di portare. Io ricordo quando Umberto Croppi, adesso attuale assessore alla cultura a Roma, scrisse un bellissimo articolo su Linea, che era il giornale della parte rautiana. Fu l'editore di Fascisti Immaginari, Croppi. Sì, Ma è stato anche, vabbè, editore, era lavorava alla Vallecchi come direttore, diciamo, però... Il libro uscì perché sì, c'era lui, se no non sarebbe mai uscito. Sì. Però Umberto scrisse questo articolo sul restringimento dell'area di destra, perché l'area di destra si stava restringendo, io parlo degli anni 78-79, e mi ricordo Pisanò si infuriò sulle pagine del Candido dicendo che non era vero, e invece l'area di destra si restringeva, perché mentre i liberali si spostavano, diciamo, a sinistra, tra virgolette, cioè noi cercavamo di dimostrare sì, qualche cosa. Pisanò ancora era a quei tempi abbastanza, giustamente dal suo punto di vista, congelato su fare ancora i conti della guerra civile in Italia. Beh, Filippo Rossi, siamo arrivati alla fine, ci sono tante telefonate, mi dispiace non dare spazio a tutti, avrei un modo di discuterne sulla militanza, la misticanza. Io ti sono grato, perché se non lo dicessi sembrerebbe che faccio le cose in nascosto, perché mi ha invitato a fare una grande sollevazione di Piazza Caffeina e ci verrò a fare una grande esperienza popolare. Sì, farò una sollevazione di piazza e dimostrerò che l'arte sottile del sollievo e del sollevare donne è qualcosa che non ha a che fare con la militanza, forse un po' con la misticanza. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.